voglio provar, se posso, sanar l'anima mia dalla piaga fatale. E viver si può senza il tuo strale. Non sia più la speranza lusinga nel dolore, e la gioia nel mio cuore, più tuo scherzo sarà nella mia costanza.